Questa nuova edizione, questa settima edizione dei Fiori Blu, Musica Teatro Festival, si presenta appunto, si presenta in forma di festival. Il progetto nasce nel 2012 grazie a un fortunato direi incontro con lui è ora UIEPE, e cioè Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna, e in particolare con il dottor Amato. Quindi molti anni fa questo progetto è stato immaginato insieme a questo ufficio, progetto che al centro ha una formazione multidisciplinare di teatro e di musica rivolta a persone che possono accedere alle misure alternative alla detenzione o alla pena, e anche poi negli anni abbiamo pensato anche di coinvolgere operatori che lavoravano nell'ambito del sociale. Poi piano piano ci sono aggiunti le persone diciamo vicine ai partecipanti, quindi amici, parenti, a performer, a musicisti e musiciste, e piano piano questa è diventata una comunità artistica. Sicuramente questa comunità artistica è una comunità artistica che ha in sé credo un sistema non chiuso, ma un sistema aperto, e quindi credo anche che se non fosse accaduto, se non ci fosse stata questa necessità di capire e di conoscere di più le realtà di Bologna, credo che forse il progetto si sarebbe anche esaurito qui per alcuni aspetti, ecco. Solitamente nelle altre edizioni accadevano tante cose, quest'anno, ma anzi già dalla scorsa edizione abbiamo aperto e coinvolto anche performer con disabilità. Credo che tutti questi performer siano necessari, tutti i loro vissuti sono necessari, tutte le loro istanze, i loro bisogni sono necessari per raccontare il presente che stiamo vivendo, che è particolarmente complicato per tutti noi. Quindi in realtà credo che questo sia un po' il cuore anche di questa esperienza, cioè riuscire a dare voce a chi forse di solito ce l'ha o comunque non in tutti i contesti. L'altra cosa che mi premeva dire è che gli strumenti propri del teatro e della musica vengono forniti, e questo è molto importante perché poi nel momento in cui le persone hanno a disposizione degli strumenti li possono anche utilizzare. Poi l'altra cosa che direi prima di iniziare a fare diciamo così il viaggio attraverso gli eventi è che ecco, cerchiamo più possibile di non usare la parola inclusione, perché noi speriamo in un futuro in cui non ci debba essere proprio bisogno di utilizzarla, di sottolineare che è un progetto inclusivo. Forse appunto c'è bisogno anche di capire come praticare, no? Certe parole, adesso non si usa più integrazione, però ecco. E quindi mi collego a questo perché il senso anche degli eventi che abbiamo in programma è anche questo, spiego meglio. Abbiamo pensato di organizzare 5 incontri in 5 biblioteche della città di Bologna, cercando di avvicinare all'opera Le Metamorfosi di Ovidio, che sarà l'opera a cui ci ispireremo molto liberamente, e cercare di avvicinare le partecipanti e i partecipanti dei Fiori Blu a quest'opera, e non solo loro, quindi sono coinvolte e invitate tutte le persone che magari gravitano in queste biblioteche. Ma l'altro obiettivo che ci siamo posti è anche di attraversare le metamorfosi anche da altre angolature, altre esperienze, sia professionali che non. E quindi abbiamo invitato una serie di persone, tra scrittrici, autrici, fumettiste e così via, a raccontare le metamorfosi anche rispetto ai temi trasversali che porta alle metamorfosi, un'opera complessa, anche molto contemporanea. Quindi questo è iniziato, il primo incontro si è svolto il 27 settembre, c'è stato un bel scambio tra sia i partecipanti e i partecipanti di Fiori Blu, ma anche delle persone che erano lì presenti. Sicuramente tutto quello che è emerso farà parte della diciamo nuova drammaturgia, ecco, delle nuove produzioni dei Fiori Blu. E per tornare prima a quello che dicevo rispetto a la necessità di praticare certe parole come l'inclusione e l'integrazione, abbiamo pensato di organizzare un simposio il 30 novembre in Sala Borsa, dove al centro mettere proprio per noi un tema che è importantissimo, che più che un tema è qualcosa che riguarda forse tutti noi, che sono le comunità artistiche, come quella di Fiori Blu, ma come tante bellissime che ci sono sia qui nella nostra regione ma anche fuori regione, e sono forse esperimenti di convivenza molto importanti che andrebbero forse raccontati di più e osservati di più. Volevo solamente dire che il 3 dicembre andrà in, diciamo, in scena il primo studio dei Fiori Blu al TPO di Bologna. Naturalmente sulla nostra pagina Facebook del gruppo Elettrogeno Teatro si possono trovare tutte le informazioni rispetto a questi eventi e anche sul nostro sito gruppoelettrogeno.org. Naturalmente la nostra email, per cui anche per esempio per iscriversi ai due workshop che organizzeremo il 4 e il 15 al Mambo con tre musicisti molto interessanti, lì invece è necessario scrivere a info.gruppoelettrogeno.org.